Saluto. Ignazio, Teoforo, a colei che ha ricevuto misericordia nella magnificenza del Padre Altissimo e di Gesù Cristo, suo unico Figlio, la Chiesa, amata e illuminata nella volontà di chi ha voluto tutte le cose che esistono, nella fede e nella carità di Gesù Cristo Dio nostro, che presiede nella terra di Roma, degna di Dio, di venerazione, di lode, di successo, di candore, che presiede alla carità, che porta la legge di Cristo e il nome del Padre. A quelli che sono uniti nella carne e nello spirito, ad ogni suo comandamento, piene della grazia di Dio, in forma salda e liberi da ogni macchia, l'augurio migliore e gioia pura in Gesù Cristo Dio nostro. Incatenato in Gesù Cristo. Dopo aver pregato Dio, ho potuto vedere i vostri santi volti ed ottenere più di quanto avevo chiesto. Incatenato in Gesù Cristo, spero di salutarvi, se è volontà di Dio che io sia degno sino alla fine. L'inizio è facile a compiersi, ma vorrei ottenere la mia eredità senza ostacoli. Temo però che il vostro amore mi sia nocivo. A voi è facile fare ciò che volete, a me è difficile raggiungere Dio se non mi risparmiate. L'altare è pronto. Non voglio che voi siate accetti agli uomini, ma a Dio come siete accetti. Io non avrò più un'occasione come questa di raggiungere Dio, né voi, pur a tacere, avreste a sottoscrivere un'opera migliore. Se voi tacerete per me, io diventerò di Dio. Se amate la mia carne, di nuovo sarò a correre. Non procuratemi di più che essere immolato a Dio sino a quando è pronto l'altare, per cantare uniti in coro nella carità al Padre in Gesù Cristo, poiché Dio si è degnato che il Vescovo di Siria si sia trovato qui facendolo venire dall'Oriente all'Occidente. È bello tramontare al mondo per il Signore e risorgere in Lui. Il cristianesimo odiato dal mondo. Non avete mai insediato nessuno, avete insegnato agli altri. Desidero che resti fermo ciò che avete insegnato. Per me chiedete solo la forza interiore ed esteriore, perché non solo parli, ma anche voglia, perché non solo mi dica cristiano, ma lo sia realmente. Se io lo sono, potrei anche essere chiamato e allora essere fedele quando non apparirò al mondo. Niente di ciò che è visibile è buono. Dio, nostro Signore Gesù Cristo, essendo nel Padre, si riconosce maggiormente. Non è opera di persuasione, ma di grandezza il cristianesimo, quando è odiato dal mondo. Sono il frumento di Dio. Scrivo a tutte le chiese e annunzio a tutti che io muoio volentieri per Dio, se voi non me lo impedite. Vi prego di non avere per me una benevolenza inopportuna. Lasciate che sia pasto delle belve, per mezzo delle quali mi è possibile raggiungere Dio. Sono frumento di Dio, e macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo. Piuttosto accarezzate le fiere, perché diventino la mia tomba e nulla lascino del mio corpo, ed io morto non pesi su nessuno. Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo. Pregate il Signore per me, perché con quei mezzi sia vittima per Dio. Non vi comando come Pietro e Paolo. Essi erano apostoli, io un condannato. Essi erano liberi, io a tutt'ora uno schiavo. Ma se soffro, sarò affiancato in Gesù Cristo e risorgerò libero in Lui. Ora, incatenato, imparo a non desiderare nulla. Raggiungere il Cristo. Dalla Siria sino a Roma combatto con le fiere, per terra e per mare, di notte e di giorno, legato a 10 leopardi, il manipolo dei soldati. Beneficati diventano peggiori, per le loro malvagità mi alleno di più, ma non per questo sono giustificato. Potessi gioire delle bestie per me preparate e m'auguro che mi si avventino subito. Le alletterò perché presto mi divorino e non succeda, come per alcuni che intimorite non li toccarono. Se incerte non volessero, le costringerò. Perdonatemi, so quello che mi conviene. Ora incomincio ad essere un discepolo. Nulla di visibile e di invisibile abbia invidia perché io raggiungo Gesù Cristo. il fuoco, la croce, le belve, le lacerazioni, gli strappi, le slogature delle ossa, le mutilazioni delle membra, il pestaggio di tutto il corpo, i malvagi tormenti del diavolo vengano su di me, perché voglio solo trovare Gesù Cristo. Imitare la passione del Cristo. Nulla mi gioverebbero le lusinghe del mondo e tutti i regni di questo secolo. È bello per me morire in Gesù Cristo più che regnare sino ai confini della terra. Cerco quello che è morto per noi, voglio quello che è risorto per noi. Il mio rinascere è vicino. Perdonatevi, fratelli, non impedite che io viva, non vogliate che io muoia. Non abbandonate al mondo né seducete con la materia chi vuole essere di Dio. Lasciate che riceva la luce pura, là giunto sarò uomo. Lasciate che io sia imitatore della passione del mio Dio. Se qualcuno là in sé comprenda quanto desidero e mi compatisca conoscendo ciò che mi opprime. L'amore crocifisso. Il principe di questo mondo vuole rovinare e distruggere il mio proposito verso Dio. Nessuno di voi qui presenti lo assecondi. Siate piuttosto per me, cioè di Dio. Non parlate di Gesù Cristo mentre desiderate il mondo. Non ci sia in voi gelosia. Anche se vicino a voi vi supplico, non ubbiditemi. Obbedite a quanto vi scrivo. Vivendo, vi scrivo che bramo di morire. La mia passione umana è stata crocifissa e non è in me un fuoco materiale. Un'acqua viva mi parla dentro e mi dice, qui al Padre. Non mi attirano il nutrimento della corruzione e i piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo della stirpe di Davide e come bevanda il suo sangue, che è l'amore incorruttibile. Scrivo secondo la mente di Dio. Non voglio più vivere secondo gli uomini. Questo sarà se voi lo volete. Vogliatelo, perché anche voi potreste essere voluti da Lui. Ve lo chiedo con poche parole. Credetemi, Gesù Cristo vi farà vedere che io parlo sinceramente. Egli è la bocca infallibile con la quale il Padre ha veramente parlato. Chiedete per me che lo raggiunga. Non ho scritto secondo la carne, ma secondo la mente di Dio. Se soffro, mi avete amato. Se sono ricusato, mi avete odiato. Congedo. Ricordatevi nella vostra preghiera della Chiesa di Siria che in mia vece ha Dio per pastore. Solo Gesù Cristo sorveglierà su di essa e la vostra carità. Io mi vergogno di essere annoverato tra i suoi. Non ne sono degno perché sono l'ultimo di loro e un aborto. Ma ho avuto la misericordia di essere qualcuno se raggiungo Dio. Il mio spirito vi saluta, è la carità delle chiese che mi hanno accolto nel nome di Gesù Cristo e non come un viandante. Infatti, pur non trovandosi sulla mia strada fisicamente, mi hanno preceduto di città in città. Questo vi scrivo da Smirne per mezzo dei beatissimi Efesini. Con me, tra molti altri, vi è Croco, nome a me caro. Credo che voi conoscerete coloro che mi hanno preceduto dalla Siria a Roma nella gloria di Dio. Avvertiteli che sono vicino. Tutti sono degni di Dio e di voi. È bene che li confortiate in ogni cosa. Vi scrivo 9 giorni prima delle calende di settembre. State forti sino alla fine, nell'attesa di Gesù Cristo.